luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Allora, l'altra mattina su Internazionale Web c'era un articolo. Titolo: la Cina alla conquista della Luna. Beh, ottimo. La Cina sta andando sulla Luna. Sì. Vabbè, ok, d'accordo. Ma non c'erano già stati? No. Sì, sì, no, come Longoni no, ma non i cinesi, no, c'erano non i cinesi. Già stati. Ma noi ci siamo andati, mi sono chiesto in quel momento, ma noi ci siamo andati? Tu di Rovato, o qui, no. O qui è tutta un'Odissea 2001 nello spazio e chi ha orecchie per intendere intenda. Ma cosa stai dicendo? Per chi non l'ha mica visto, sai, io so, oh, sono come quello lì, come si chiama quello lì, quello che se non vede, se non vedo non credo. San Tommaso. Ma cosa, ma stai allora parlando del fatto che non siamo andati sulla Luna? Ma e allora deficiente. Ho pensato, ma forse un complottista è uno che se non vede non crede. Forse un complottista è uno che vorrebbe andare sulla Luna. Sì. Magari lui voleva solo andare sulla Luna. Lui, e nessuno ce l'ha portato a quella festa. E non essendo stato invitato alla festa, no, la festa non esiste. No, ma non puoi dire cose. Quindi non hai soldi per andare sulla Luna? Ma perché non hai soldi? Perché i poteri forti si tengono i soldi, no, e non gli permettono di avere accesso a questa vita. È il sogno di tutti i bambini fare l'astronauta. Ma come si diventa astronauta? Non ce lo vogliono dire. No, ma no. Che infatti nel cielo ci sono le scie chimiche. No. Ho visto un UFO. No. E io ho visto un UFO più grosso del tuo. No. E io ho visto un Ugo. Quanti? No. Ma come un Ugo? Un cocktail. Un complottista che si chiama Ugo. No. Che mi ha detto: quello che vedi non è vero. Ma perché finisce mi sempre così? Mi dice il complottista così. Ma quindi anche tu che mi stai parlando, io gli dico: non sei vero, sei finto. Allora esci dalla mia testa, complottista, che non c'ho tempo e devo andare a fare la spesa, che ho visto che i poteri forti hanno scontato le carote al 20% al supermercato. Occhio, occhio. Ma perché c'è Star Wars, ragazzi, sotto? Non lo so. Solo che oggi volevo dirvi, ragazzi, che per tutta la puntata, tutto quello che dirò in questa puntata sarà un complotto. Non prendetelo sul serio. No, non l'abbiamo mai fatto, Beppe. Ok, grazie. Perché è una fake news. E soprattutto non fatelo a casa. No, perché non esiste. Cioè, tra l'altro, scusa, volevo dirti mentre stavi parlando, Beppe, che Elon Musk sta preparando questo mega shuttle in cui vuole far salire delle persone molto facoltose che vogliono finire sulla Luna. Quindi potranno finalmente andarla a vedere. Esatto, e quindi finirà tutta questa teoria del complotto. Finita, che nessuno basta. Mai. Esatto, non c'è mai stato. Comunque, buongiorno, buongiorno, ragazzi. Allora, oggi parliamo di un luogo comune che ci arriva sulle bacheche di Facebook ogni cazzo di giorno, possiamo dirlo. Sì, sì. Beh, sulla tua, forse, perché sulla mia no. Sì, è vero, sulla mia è di Alessandro, sì. Io ho gattini e altra roba, esatto, di quel tipo. Oggi appunto parliamo di questo luogo comune. È tutta colpa dei poteri forti, volume 1. Sì, bravo, bravo, bravo che hai deciso di farla in due parti. Piano, cioè, piano. Il volume 2 non so se riusciremo mai a farla, perché chi lo sa se i poteri forti non ce la bloccano. Bravo. C'è questo tema. Hai capito? Ragazzi, scusate, no, fermi tutti, fermi. Spegni la musica, Andre. Ci stanno ascoltando. E certo che ci stanno, ovvio, spero. Sì. Ci stanno ascoltando anche i poteri forti. Ma ben venga, ma che diano dei soldi sti poteri stanno, forti. E si stanno anche annoiando parecchio. No. Stacca, stacca. Esatto, stacca. Allora, ragazzi, facciamo un po' di ordine. Sì. Questo luogo comune è un po' la madre di tantissimi luoghi comuni. Noi facciamo luoghi comuni da 3 anni, ormai abbiamo fatto 60-70 puntate, altrettanti luoghi comuni. Siamo arrivati adesso a un luogo comune talmente succoso che non so neanche da che parte partire. I complottisti. Allora, io ho questo tipo di approccio. Da una parte, secondo me, ci sono le persone che più o meno giustamente sollevano delle domande e non sono molto convinte di certe cose che sono accadute, ok? Sì. Che però rimangono sane ai miei occhi se utilizzano, come dire, il verbo condizionale, se pongono delle domande e non sanno dare delle risposte, se provano a cercare qualche informazione in più dalle fonti migliori. Cioè, pongono il dubbio. Sì, pongono così. Dubbi. Cioè, porre dubbi è giusto, è sacrosanto, è vitale. Però, dall'altra parte, sono, secondo me, i veri complottisti sono quelli patologici, cioè quelle persone che hanno una visione del mondo solida e piena di certezze e nessuno potrà mai, come dire, scalfire, bravissimo, il loro punto di vista. Secondo me questa è una distinzione importante da fare all'inizio di questa puntata, sennò rischiamo di finire in un cul-de-sac. Però mi sembri molto sicuro di te stesso in ciò che dici, quindi non sarai anche tu inscalfibile, esatto, nel tuo castello. Sì, è vero, è vero. Sei è vero. Patologico anche tu. È vero, è vero. Esatto. Comunque, io sui poteri forti volevo dire che siccome ci stanno soggiogando ed è evidente, cioè c'è sempre una massa più ampia di poveri in questo mondo, perché ci sono poche famiglie che governano questo mondo. Io avrei una sola richiesta ai poteri forti: potete darci 3.000 euro al mese, poi non rompiamo i coglioni. È una richiesta banale, semplice. Ma che richiesta dateci è? Ma soldi. Sei un poveraccio, ma che linee 5 io accetto già il vaccino, no? 5.000, vabbè, accetto vaccino, nanoparticelle, 5G, antenne dappertutto, vi prego, dateci, vi prego, qualcosa, dateci più stipendio, no? Poi non mi lamento più, non mi lamento più. Allora, come sempre abbiamo allargato questo tema alla nostra redazione di Twitch e di Telegram. Sì. Sono arrivati un botto di WhatsApp questa volta, vedo che il tema scalda molto. Sì. Iniziamo con questo che abbiamo nominato WhatsApp inutile, ma come diciamo noi in redazione, non c'è inutilità quando si fa la chiacchiera da bar, perché è ripetita Juvent. Con il termine poteri forti si indica quell'ente o quell'organo di governance che non si capisce e non si conosce. Per cui di solito si chiama poteri forti. Ciò che non si conosce e non si capisce. Ottimo, ho capito. Ma mi sembra un po' grazie alla cippa. Io aprirei la rubrica hashtag grazie al cazzo. Non so se voi siete d'accordo. Dai, perché tu pensi che ci sia un complottista che la saprebbe ripetere in questo modo così precisa? No, così precisa no. Effettivamente no. Effettivamente no. Mi daranno della negazionista? Mi daranno della turbo aperturista? Mi daranno della Novax? Facciano pure, non mi interessa. Questi nanochip verranno introdotti attraverso le vaccinazioni o addirittura, alcuni sospettano, attraverso i tamponi. A quel punto tu puoi, con la tecnologia 5G, puoi modificare addirittura il pensiero di una persona, puoi fargli fare cose che quello non era in grado di fare e puoi iniettargli farmaci da remoto, vaccini da remoto. Voglio dirvi i nomi di ciò che contengono i vaccini: idrossido d'alluminio, fosfato d'alluminio, sangue di maiale, cervello di coniglio, rene di scimmia, embrione di pollo, siero fetale bovino, gelatina. Potete mai voi dire a noi che siamo negazionisti? Noi siamo complottisti, ma diciamo la verità. Nella tua ultima occasione, se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo, niente di più. Questo termine verità, ragazzi, questo termine verità, questo termine verità fa paura, fa rabbrividire sentirlo dire da un Neo, da Morpheus, quando offriva la pillola a Neo. Allora, per parlare di questo tema abbiamo Giulio Cavalli, giornalista, autore di un libro appena uscito per Fandango Libri, Di Speranza. Ciao Giulio, benvenuto a Off Topic. Ciao a voi. Allora, prima domanda: pillola rossa o pillola azzurra? Tra l'altro ricordavo sempre blu, ho sempre ricordato blu, adesso riascoltandola è azzurra. Ma non è che era già una mossa per vendere le famose pillole azzurre? No, quelle di Viagra. Esatto. Giulio, pillola rossa o pillola azzurra? Io aspetto con ansia il 6G, così ci togliamo dalle palle questo. Esatto. Cioè quello successivo, l'update. Allora Giulio, tu hai a che fare ogni giorno con complottisti di ogni genere. Hai anche una rubrica su Facebook che si chiama hashtag buongiorno, appunto. E quando ci siamo sentiti al telefono mi hai detto che ti capita un po' di tutto su Facebook. Ho notato in questo blog, abbiamo sentito che il Covid è stata la stura perfetta per i complottari, è vero? Certo, perché se ci pensi è un virus che non si conosce, che si sta studiando, quindi stiamo conoscendo in itinere. Provoca ovviamente delle decisioni politiche che sono impopolari, che sono forti e che vanno comunque ad intaccare la libertà personale. E si inserisce perfettamente in quel grande progetto di massa che i complottisti hanno sempre in testa, no? Giulio, senti, io ho un'idea, vorrei capire se la condividi. Secondo me queste persone hanno inizialmente, cioè alla base di tutto, c'è un grosso disagio psichico, cioè questa è un po' la mia idea, non è tanto una questione di ignoranza, tipo non so, ad esempio molti dicono vabbè, gente che non studia, non ha studiato, non sa nulla. Secondo me non è una questione di ignoranza, è una questione di disagio mentale, di ansia verso un mondo che non riescono a capire e quindi si danno delle certezze. Secondo te è vera questa interpretazione mia o no? Ma c'è da una parte un senso di frustrazione che trova libero sfogo se ci pensi su questo, cioè se io penso che ci sia qualcuno che governi il mondo con delle pratiche che io disconosco o di cui sono all'oscuro, significa che i miei fallimenti non sono colpa mia, ma è sempre colpa di qualcun altro, e quindi questo mi salva ai miei occhi nella costruzione della mia identità. E poi secondo me c'è anche un po' di esibizionismo, no? Di voler andare per forza controcorrente. Se una cosa la pensano tutti o quasi tutti, allora per forza è falsa. Io mi siedo dall'altra parte, no? Dell'argine. Sostanzialmente, scusate, che poi è un po' la mia teoria del complottaro, sono una minoranza ma molto molto rumorosa. È molto rumorosa perché riescono molto di più a fare rete di tutti gli altri, se ci pensi, no? E quindi non so, c'è uno che dice che il rosso non è rosso ma è verde, che il bianco è nero, tutti rimangono, tutto quel gruppo rimane compatto su questo, e per assurdo, se ci pensi, ha il metodo di comunicazione che loro stessi, no? Molto spesso criticano, certo. Giulio, noi ti abbiamo messo sotto la lente di ingrandimento quest'oggi perché tu il 5 agosto 2020 hai pubblicato il decalogo del complottista, sì. Ci ha fatto molto ridere, soprattutto perché il decimo punto, Beppe, che è il migliore, è un capolavoro, la 10 non esiste, così la gente che impazzisce su queste cose rimane lì attaccata, dice come la 10 non esiste, porca puttana. Cioè, come ti è venuto in mente questo decalogo? Tra l'altro ad agosto eravamo fuori pandemia, in teoria comunque c'era una situazione più rilassante. Cos'hai analizzato il Covid da marzo a maggio, giugno, e hai fatto un decalogo? Guarda, io abito a Lodi e quindi il Covid, diciamo, l'abbiamo vissuto certo. Nei tempi peggiori. Tra l'altro abbiamo vissuto anche in questo strano spazio temporale per cui da noi già moriva la gente e in televisione si diceva forse trovato il paziente 1, e ognuno di noi invece aveva degli amici, dei conoscenti, se non addirittura dei familiari che erano già ricoverati, no? E quindi sembrava di essere un po' nel futuro, se ci pensi. Sì. Quando poi il Covid è arrivato in tutta Italia, la pandemia è arrivata in tutta Italia, sono cominciati ad arrivare i primi negazionisti, e arrivavano a frotte sulla mia pagina, perché io sono stato ovviamente, per questioni anche geografiche, uno dei primi a parlarne, no? Sì. E un giorno mi sono messo lì, ho detto, beh, ma perché, qual è la tesi di questi complottisti? E quindi ho messo giù questi 10 punti, cioè 9 più quello misterioso, che poi è quello fondamentale, che non svelerò finché non mi arriva il bonifico di Bill Gates. È chiaro, o Bill Gates, come dicono alcuni dei complottisti, o Bill Gates. Pensando che lui li ascolti, tra l'altro, che lui si offenda, esatto, perché, capito, ascolta te da... Allora ragazzi, parto da un messaggio che ci è arrivato su Twitch... giusto perché così poi vi faccio una domanda, estendo anche voi il quesito. Giuppi85 ci scrive: io ho fatto 3 tamponi, appena attiveranno il 5G diventerò uno zombie controllato a distanza. Certo, sicuro. Tanto non credo sia così, ma al di là di questo come non credo. Devi dire che non è così. Non è così, va bene, non è così. I poteri forti sono io. La cosa che chiedo a voi qui in studio e a te, Giulio, a casa, è: qual è il vostro guilty pleasure dei complotti? Cioè il mio è assolutamente il 5G. Ti piace proprio? Mi fa ridere il fatto che uno si lamenti del 5G scrivendo dei post su Facebook, per esempio. Cioè, tu ti lamenti di una cosa che ti permette di comunicare con gli altri. Cioè, se togliessero il 5G, tu non dici più nulla. No, è vero. Quindi, è vero, in effetti, potrebbe essere un controcomplotto. Sì, guarda, il mio complotto preferito sono le Torri Gemelle. Cioè, a me fa proprio svalvolare. Io mi fermo a guardare su YouTube i video che ricostruiscono come si sono fuse da sole, con le cariche esplosive all'interno, i pilastri della. Però, su questo, Longoni. No, Longoni, non io. Okay. Longoni, so che ha una teoria personale. Allora, ho interpretato da Beppe qual è il guilty pleasure, cioè qual è il complotto che ci diverte di più. Allora io ti rispondo: il terrapiattismo è sicuramente quello più divertente. Anzi, io vi dico il terracavismo. No. Voi siete rimasti indietro, ma è già da anni il terracavismo sta trottando ed scusa, è il mio preferito. Spiega per favore agli ascoltatori che sono in macchina in questo momento. Allora, il terracavismo è meraviglioso. La terra è sferica, è tonda, però all'interno non è piena ma è vuota, ma e le pareti interne sono abitate da una popolazione più nobile di noi, animali più nobili di noi, e noi siamo gli scarti di questa. Scusa, di questa... sono Paul McCartney, Elvis, sì, Michael ci sono un Jackson, po' tutti. Sì. E per entrare nella terra cava devi andare al polo, devi entrare al polo e infilarti dentro il buco. Allora, io adoro il terracavismo. Ho fatto un'ora al telefono con un terracavista, è stata un'esperienza bellissima. Cari amici che ci state ascoltando, non prendete la barca, non andate verso non il polo, perché questa cosa. E questo è il guilty pleasure, cioè che cosa ci piace nel mondo del complottismo. Invece, mi hai anticipato, Riccardo, qual è quello che. Cioè, ammettiamo noi di essere essere un po' complottisti. Qual è, sì, il nostro piccolo dubbio nell'esistenza? Perché i fatti storici sono pieni di ombre e lo sappiamo, migliaia di documentari di storia ci raccontano che non abbiamo tutte le informazioni a disposizione. Sandro Giacobbo, per esempio, anche. Basta, l'ho detto così. No, no. Stavo pensando ai documentari della Rai, quelli, certo, fondamentali. Anche lì, come dire, non so, Moro, Ustica. Cioè, ci sono JFK ucciso, insomma, ci sono tanti elementi della storia che sono, hanno delle ombre. Ok. E infatti, come dicevo all'inizio della puntata, è lecito sollevare delle domande. Però il problema del complottismo è appunto avere delle certezze, che secondo me è il punto sbagliato. Rispondendo alla tua domanda, guarda, non lo so, anche a me un pochino l'11 settembre, come dire, cattiva, appassiona. Mm. Appassiona. Non aggiungo altro. Okay. Perché... Giulio, però, il tuo guilty pleasure complottaro? Ah, guarda, io ne ho trovato uno settimana scorsa che penso che sia degno veramente di un film. Era la foto di una mano del Davide Donatello, uh-huh, e praticamente la tesi sostenuta da più persone erano che il Davide Donatello, così come le sculture di quell'epoca, in realtà non sono mai esistite, cioè non sono delle vere e proprie sculture, sì, perché dicono loro mancavano le tecnologie e il sapere per poter scolpire con quella precisione, quindi o sono frutto di macchine tecnologiche portate da entità extraterrestri già nei tempi passati, no, oppure qualcuno addirittura diceva che sono uomini giganti, sì, perché sono i famosi giganti che stanno al limite della terra, certo, dei terrapiattisti, certo, quelli che controllano, sì, quelli del Don Quixote, mi viene da dire, eh? Sì, è il DCPM dell'ordine mondiale che non si può uscire esatto, dal confine, e dicono che sono, quindi, giganti che sono stati uccisi e poi sono stati coperti dal marmo. Questo io penso. Ragazzi, ma questa vince il nostro premio, sì, sì, Best Award Guilty Pleasure Complottista. Mamma mia. Allora, ci è arrivato un WhatsApp da parte del nostro ascoltatore su una definizione molto bella direi dell'universo che si autosostiene dei complottisti, mm-hmm, che è il WhatsApp 4, lo chiamo, come si faceva un tempo. Andrea Roccabella, lo faccio perché così cito il nostro regista, sennò poverino è sempre lì dietro che tasta i bottoni, come si dice. Sentiamo cosa dice Windark, possiamo dirlo? Sì. Windark. Io credo che il complottista in quanto tale non è in grado di giudicare se lo è o meno, e quindi crederà sempre di essere nel giusto, a prescindere da tutto e da tutti, dai dati, dai fatti e anche quelli più evidenti. Quindi il risultato qual è? Che nessuno di noi può sapere se è un complottista o meno, perché se lo sei, non lo sai. Se non lo sei, potresti sempre esserlo senza saperlo. Beh, ma è fantastico, è perfetto. Potrei esserlo io, ad esempio. È un complottista a sua insaputa. Sì, molto ricorsivo. Giulio. Ma tu, Giulio, come fai a difenderti un pochino? Perché, come diceva Alessandro, la teoria del complotto entra sempre un po' nel nostro cervello. A te è mai capitato di cedere certe volte di fronte ad alcune spiegazioni ufficiali e dire, qui, gatta cicova? No, mi è capitato e mi capita spesso, ma anche in questo periodo per lavoro, invece di essere molto dispiaciuto, uso un eufemismo, del fatto che molto spesso i complottisti e le bufale inquinino delle domande invece che sarebbero lecite. Quindi ti faccio un esempio, la questione dei dati non ancora pubblicati, non ancora pubblici, e la discussione sul fatto che vengono o no resi disponibili agli stati dei test del vaccino, ad esempio anti-Covid, faccio un esempio, è un tema importante. Certo. È un tema che secondo me andrebbe discusso, e invece molto spesso, essendoci queste due fazioni opposte che si prendono a legnate dalla mattina alla sera, camminare lì in mezzo non è che sia proprio comodissimo, no, per un giornalista, no, se tu ci pensi. Vi ribalto la domanda e lo faccio a tutti voi, ragazzi. Chi c'è dietro i complottisti? Cioè, ribaltiamo la cosa, perché io mi rendo conto, quando vedo le cose di BioBlu, vedo le cose che circolano online, le teorie sono talmente complesse e costruite bene, anche i video, bene, che, sì, vengono fatti sono esteticamente molto belli e si danno un tono serissimo. bravissimo. C'è un nuovo canale, adesso non ricordo il nome, in cui fa queste inchieste, queste interviste, dà l'idea di essere un giornalista profondo che controlla le fonti. E io mi immagino i fruitori di queste persone dicono: caspita, però guarda com'è bravo, com'è ben documentato. Vi faccio un esempio: virus, vaccino, Bill Gates, microchip, 5G. Quali poteri forti ci sono dietro ai complottisti? Perché per creare una vulgata del genere che poi venga ripetuta pedissequamente da tutti in maniera così costante, ci deve essere dietro qualcuno, secondo me. A sto punto ribaltiamo la domanda: e chi c'è dietro ai poteri forti, Giulio? E chi c'è dietro, scusa, ai complottisti? C'è dietro Giulio? No. Sei tu dietro? No, no, avete beccato. Gli inetti, cioè quelli che non riescono a giocare nel campo dei fatti reali, delle regole, e quindi non riescono a ritagliarsi un mercato, una visibilità pubblica, un'autorità su quel campo, e decidono di ribaltare il tavolo, no? È un po' come mettersi a giocare a scacchi con una gallina: vince sempre la gallina perché ha in testa le regole sue, no? Certo. Bella come immagine. E tanto si mangia sempre le pedine, in effetti. Cioè, ti ha mangiato il re, effettivamente. Allora, Giulio, l'ultima domanda e poi ti lasciamo. Con i complottisti bisogna avere pazienza e stare lì a spiegargli le cose, oppure mandarli a fare in culo? Anche se la tentazione di mandarli a fare in culo è grande e molto spesso è anche liberatoria, io credo che dentro i complottisti ci siano molte persone che invece si meriterebbero un po' di cura nell'informazione, un po' di ascolto, avere la pazienza di smontarli passo passo. Guarda, ti racconto velocissimamente: un giorno ero alla presentazione di un mio libro e una delle persone che era lì ad ascoltare a un certo punto mi tira fuori la storia dei vaccini, se non ricordo male, comunque era una storia, e mi dice: mi stupisce che un giornalista come te, che io seguo con passione, quindi diciamo era una fan, chiamiamola così, non, su questo tema non abbia mai detto niente. Io le chiedo: ma dove hai trovato le informazioni? Ne parlano tutti tranne te. Mi apre il suo telefono davanti agli occhi e questa è una discussione che noi facciamo sempre troppo poco, il suo Facebook era tempestato di questa teoria. Esatto. E quindi per lei la realtà era quella cosa lì. Il mondo era quello. Posso capire che lei pensasse: ma come fa Giulio Cavalli a non avere mai incrociato una di queste tesi e non averci mai detto niente? L'ho letto su Facebook, non ce lo dicono. Giulio, facci qualcosa, diceva la signora, dacci una mano, aiutaci. Quindi è una richiesta d'aiuto, fanno i complottisti stanno solo chiedendoci aiuto. È vero. Ma sì, ragazzi, io l'ho detto dall'inizio. Secondo me qui la questione non è mettersi lì con i fatti, con gli argomenti, spiegargli le cose, i dati. Tanto non la capiranno mai. Anche se gli fai vedere la ferita di Gesù Cristo, comunque ti diranno che non è stato ferito. Lei mi sta andando un po' troppo in là. Sto parlando di San Tommaso. Dai, ragazzi, il tema qui è la solitudine. Cioè, sono persone sole che hanno avuto un problema. Serve la psicanalisi, serve ascoltarle, serve abbracciarle, fargli una torta salata. Cioè, questa roba qui. Sono d'accordo su Io ho parlato un'ora con un terracavista, raga, non c'era scampo, non c'era possibilità di uscirne. Longhi, allora il prossimo obiettivo ti daremo in mano Enrico Montesano, che visto che si è diciamo si è attivato, convertito, è diventato improvvisamente un attivista politico. Esatto. Mi chiedo che cosa ha votato nel 94 lui quando... Basta! Va bene, con questo ci chiudono, Giulio, i poteri forti, ci ti chiudono, ringraziamo, ragazzi. Per il volume 2 forse ti richiameremo se ti sei divertito, e grazie mille e in bocca al lupo. Ciao. Grazie a voi. Ciao Giulio. Allora, ragazzi, allora oggi la chat di Twitch era un'orgia, avete scritto tantissimi, non abbiamo fatto... Ma cosa vuol dire? È un'orgia, c'era tantissime persone che scrivevano, volevano esprimere opinioni anche su Telegram, un sacco di opinioni, WhatsApp, quindi grazie. Ma dove ce le scrivono? Se vogliono scrivercele. Esatto, bravo, su offtopic_24 nel nostro gruppo Telegram, venite, condividete con voi le vostre opinioni. Ah, con voi, condividete con noi, voi. Con voi, con noi stessi, con tutti noi stessi le nostre belle idee. Sì. Vabbè ragazzi, dai, ci sentiamo la prossima volta a questo punto. La prossima volta, quando vuoi tu. Sabato, ma noi ti telefoniamo così sabato quando alle 21 vuoi. Ci sentiamo, se no ci trovate in podcast Off Topic, e che vi devo dire, su Instagram Off Topic 24. Bravo, la settimana prossima escono due nuovi episodi di Sul Filo, podcast che abbiamo lanciato la settimana scorsa, podcast teatrale, teatrofonia, hashtag è troppo poco il tempo per questa trasmissione, si fa fatica a dire le cose in ragazzi, due minuti. Una carezza vale per addio. Tutti, ciao. Addio. Addio. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.